Allora, volevo leggere un titolo che parla di smart working, lo prendiamo a prestito dal Sole 24 Ore, grazie alla regia che ce lo mostra. Ecco qua. Da oggi ci sono delle cose che cambiano sullo smart working. Arresto e multa fino a 7.403 euro ai datori di lavoro per mancata consegna dell'informativa sulla sicurezza. Con l'entrata in vigore della legge annuale sulle PMI, reso perentorio l'obbligo di consegna con cadenza almeno annuale dell'informativa scritta ai dipendenti in lavoro agile che individua i rischi generali e i rischi specifici connessi. Sapete che ce ne siamo occupati diverse volte perché ci sono state già delle cause, persone licenziate, perché erano in smart working e non si comportavano come se fossero in ufficio. Insomma, è una situazione un po' complicata. Siccome ci sono queste regole, abbiamo chiamato il dottor Enzo De Fusco, che è consulente del lavoro, che è qui con noi in studio. Salve, Buonasera, grazie. professor Dottor De Fusco, grazie per essere con noi. Allora, intanto, siccome è un titolo un po' complesso, ci aiuta un po' a scioglierlo, come si dice in gergo, a spiegarlo un po' meglio. Che cosa cambia da oggi? Allora, il datore di lavoro in genere ha una responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e finché un lavoratore è in azienda è chiaro che ce l'ha a portata di mano e lo controlla anche sotto un profilo dei rischi. Quando però il lavoratore svolge un'attività fuori dall'azienda, quindi smart working, da casa ma anche in giro, allora quello che vuole il legislatore è che si faccia un'informativa a quel lavoratore dicendogli esattamente quali sono i suoi rischi, sia di tipo generale sia di tipo specifico in funzione del tipo di mansione che svolge. L'informativa, in verità, già era presente nel vecchio decreto sullo smart working, che è del 2017, ma non aveva un risvolto sanzionatorio rilevante. Invece, con questa legge, e riguarda tutti i datori di lavoro, si introduce una sanzione a carattere penale, quindi molto rilevante e anche pericolosa per un datore di lavoro. E quindi bisogna fare l'informativa annualmente. Ma questo vuol dire che se io lavoro in smart working e mi faccio male, e sono a casa mia, comunque c'è una forma di responsabilità e di non vigilanza in qualche modo del datore di lavoro che però sta da un'altra parte? Se non ha fornito un quadro dei rischi completo a quel lavoratore, anche se si infortuni a casa sua, potrebbe avere una responsabilità. E quindi è evidente che l'informativa che fa il datore, più è completa, più è esaustiva, più è dettagliata e più viene meno anche la sua responsabilità conseguente ad un infortunio. Allarghiamo un po' il discorso. Certo. Allora, dibattito in corso, non teorico ma concreto, investire di più sullo smart working per permettere alle aziende di risparmiare, visto i costi che stanno lievitando su tante forme di energia, non solo il carburante per andare al lavoro, ma banalmente anche la luce elettrica, no? Con le bollette, per via della crisi internazionale. E pensa che potrebbe essere una tendenza che racconteremo come realtà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Beh, certamente qualcosa dobbiamo fare perché il consumo del petrolio va risparmiato perché dobbiamo diminuire il consumo di energia in genere e quindi fa bene l'Europa a sensibilizzare i paesi membri nel utilizzare con parsimonia l'energia. Però, come scrive nella lettera, ove possibile. Perché non sempre è possibile chiaramente stressare lo smart working a livello di organizzazione di azienda, tant'è che lo stesso commissario dice invitate i lavoratori anche ad utilizzare i mezzi pubblici o a macchine elettriche, quindi dà altri inviti in alternativa allo smart working. Adesso io non intravedo all'orizzonte lo smart working di massa come nel Covid. Forse qualche azienda potrà sensibilizzare un po' di più l'utilizzo dello strumento, ma non in modo così massivo come possiamo immaginare.